Chi è? Ma come chi è? Una marimba? Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Carmelo Lauricella e un saluto da Cappedrago no, e Laura Faggin. Vabbè, ma vogliamo sempre dire ma non la citi mai, poverina. Anche Tommaso Varvello bisogna ringraziare. È vero, e anche Daniel Plenz, e anche Guido Bertolotti, Alberto Caserini, certo. Però il problema è che siamo all'inizio della trasmissione di giovedì e queste cose si dicono alla fine della trasmissione di venerdì. Ma io anticipavo un po'. Dai, il giovedì è un giorno weekend lungo, dai, no? Giovedì, dai, giovedì. Giovedì, vabbè, giovedì è come tutti i giovedì di questa nuova stagione televisiva, si avverte purtroppo un grande vuoto. Se siamo alla radio, facciamo un programma radiofonico, chi se ne frega del vuoto televisivo e poi tutto quale vuoto un televisivo? Un vuoto, lasciato un vuoto. Michele! Vuoto lasciato da Michele Santoro. Ah, beh, certo. E infatti, adesso sulla 7 c'è il contentino di Corrado Formigli. Michele! Piazza Pulite! Piazza Pulita, sì. Scritto tutto attaccato, Piazza Pulita, come anno zero. Michele! Così. Michele. Ma come fanno le vedove ottantenni adesso senza Santoro? Ma le vedove ottantenni non sono fisse su Rete 4? No, da qualche anno si è reinvertito il trend, no? Le trasmissioni preferite per le ottantenni sono diventate 8 e mezzo, L'infedele, Ballarò e Anno Zero. Ma sei sicuro di questa sicuro, cosa? Sicuro, sicuro. Anche la Zanzara alla radio piace molto alle ottantenni. Infatti non si, forse su 8 e mezzo può andare Comunque quando una certa età si soffre di insonnia e non si dorme nemmeno con le repliche di Colombo, è consigliabile passare a Gad Lerner. Almeno Gad Lerner è vivo. Perché Colombo invece? Eh beh, certo, anche il tenente Colombo, non lo sai, anche lui, dopo tanti anni di Alzheimer e occhio di vetro, come tutti gli esseri umani, una mattina qualunque dell'estate del 2011, anche lui invece di svegliarsi e fare colazione, il tenente Colombo, H. Peter Falk, è morto. Ah, Peter Falk è morto? Eh sì, purtroppo è morto, sì. Ah, ecco perché ultimamente si parla tanto di Area Falk. Tito, ma dai, è una battuta, no? Mediocre, però l'ha scritta Drago. E ora, bambini, ricreazione. Tito, sì, bello, Ciccio. Poverino. Ma cosa poverino? Gli hanno morsicato l'orecchio. Sì, infatti bisogna coccolarlo. Vedi? Poi coccolare il pet fa bene anche a te. Si chiama pet therapy. Pet therapy. Sì, vero, Tito. Sì, però Tito, sono quelle cose che lasciano il Tito, tempo che trovo. Vai giù, Tito. Madonna, guarda cosa mi ha fatto. Ecco, questo era pet. Questo il lascito del pet. Vabbè. No, comunque è così, Cosa? No, anche noi adesso stanno facendo in classe all'asilo c'è questa nuova iniziativa del direttore scolastico di farci 2 ore alla settimana di pet therapy, no? La pet therapy, cioè, 2 ore alla settimana, ogni classe c'ha un animaletto domestico, è morbidoso, cioè, dolce, cucciolo, da accudire. Ma un animale, sembra veramente. No, sai di che cosa fa? Dicono che faccia bene i bambini. Ma sì, ma senti, bambino Alberto, cioè, cosa fate? Coccolate un gatto. Sì, e poi quel gatto risparmisce per il resto del tempo. No, qui c'è il problema. Perché dai rossi e gialli c'hanno il cagnolino, il gatto, la F ha i cricetini, poi c'è la H con i bambini. Quella è la classe dei cinesi, no? E quindi loro hanno animali del loro paese. Sì, ma il panda è rarissimo. Ma il panda, cioè, non ce ne sono quasi più. E come fate a averne voi di pandini? No, voi, ce l'hanno i cinesi ce l'hanno loro, il panda è nostro. Ma gli è arrivato in una scatola di legno in mare. Allora, loro se ne fregano. Così. Poi noi ci abbiamo i pandini. Un pandino per ogni bambino. Invece noi abbiamo un animaletto per ogni... E loro un pandino per ogni bambino. Noi invece... Cioè loro sono in 20 panda nella classe. Ma pandine, da parte tua, capito, però pandino, sono 20. Sono una panda 30 in pratica. Questo è molto divertente. Vabbè, allora, nella classe dei cinesi c'è pieno di panda che cagano dappertutto. E vabbè, abbiamo capito. Sono abituati, sono fantasie del bambino Alberto. Come Gildo. Sì, esatto. Allora, invece voi che... No, niente, sta bravo. Perché cosa? Il bambino Alberto dicevi che cosa? No, vabbè, ma allora, invece voi che in classe che animale avete? Che animale avete? Noi abbiamo il piccione. Il piccione. Ma come il piccione? Ma i piccioni, ma fanno schifo i piccioni. Ma no, noi abbiamo il piccione, non un piccione. Ma poi i piccioni volano, come fanno? Noi abbiamo il piccione, il piccione del cortile dell'asilo. Sì, ma... È un piccione che non volava più fuori, è perché non ce la faceva più. Ma come? Era un po' così, un po' malato, no? Era un po' infelice, si dice, infelice, aveva un'aletta che ormai... Non volava più. Allora era la mascotte. Come fa l'aletta malata? Eh sì, perché è mezza lussata, no? E invece, non vola più. Cioè vola di quelli lì col becco un po' tutto rincagnato, senza una zampa. E beh, un po' sporchi anche. Sporchi. Lui si è fatto 25 anni in Piazza Duomo. E ti raccomando, no? piccione. Ma vivono così 25 tanto? Anni, non lo so. E poi ho detto, dove vado a svernare? E mi trovo un cortile. Trovo un cortile, questo cortile non mica male. Scende giù, c'è Gino il bidello che sta spazzando in cortile. Questo piccione si posa vicino, Gino il bidello lo guarda e con la ramazza gli dà una vangata. Spadapam! Ma come? Ma... Eh sì, perché Gino il bidello reagisce così! E così l'origine del fatto che l'ala è sifola. Ah, ho capito. Gino poi, siccome ha un'anima, ha detto, adesso mi devo prendere cura di lui. E quindi si è preso cura del piccione. Sì, che come si chiama il vostro piccione? Pio. Pio. Pio Pio. Ma come Pio Pio? Pio Pio è il pulcino, il piccione fa... Turr, turr, ah no, questo fa Pio Pio. Ah, vabbè, fa Pio Pio. Ma piccione. La sì, voglio dire, ma che pet therapy. Ma cioè, quindi voi vi dovete prendere due ore alla settimana del piccione malato. Che cosa... in 2 ore alla settimana... Mediamente siamo in 30, in 27 prendiamo la scabbia. Vabbè, è una bella pet therapy. Quindi c'è la scabbia. Quarantena. Ma non ho capito, bambino Alberto. Cioè, quindi state a casa. Pet therapy, quindi causa dei danni inqualificabili. Cioè. Stai a casa e fai solo 2 ore a settimana, torni lì e ti viene un'altra malattia, la leptospirosi, tipo. Please pass the milk, please. Please pass the milk, please. Please pass the milk, please. Vieno asilo. Borse in disfatta. Mercatino globale in pieno fermento qui a Milano. Beh, certo, Allora, non so come vadano le cose dalle altre parti, ma qui veramente c'è un fermento. Sì, qui il baratto ormai c'è un fermento, qui deve essere il formaggio che hai portato, Drago, no, che fermenta so. Perché. No, ma può darsi anche che ho camminato tanto, sai come. Ma Drago, per favore! Allora, qui ormai il mercatino è VIP, VIP. E anche il baratto è VIP. È VIP, è VIP. Non solo il baratto, ieri sera è venuto uno a suonarmi alla porta per chiedermi dei soldi. Non mi era mai successo prima. Ma come, cioè così? Uno suona alla porta e mi dai dei soldi? Sì, allora, prima ha cominciato dicendo che voleva entrare per parlarmi solo 2 minuti. E io chiedevo, mi deve parlare di che cosa? No, ma è una cosa privata, comunque ci metto poco. Io ho detto, ma se mi dica perché cosa è. E poi mi ha detto, ho bisogno di soldi. Ah, e tu? Io ho detto che non potevo aiutarlo, che vivevo grazie al fido finché durava. E lui mi ha detto che a me il fido magari me lo facessero, vogliono le garanzie. E gli ho risposto che le mie garanzie non ci sono più da tempo, solo che la banca non lo sa. A quel punto lui si è messo a ridere e mi ha dato 5 euro. Anzi, 5 euro. Ah, e tu? Io li ho presi. Modella ventenne, basta! Cosa c'è, Drago? Minorenna bellissima, basta! Ma dai, cos'è il New Deal di Vincent Cassel? Ma qua. No! È il nuovo trend adulto della pubblicità e della moda. Isabella Ferrari, modella di intimo per una nota marca che festeggia il 10° anniversario. Non so se mi spiego. Ma Isabella Ferrari. Isabella Ferrari, 47 anni, modella di intimo. Vabbè, certo, cercavano una modella vintage per festeggiare l'anniversario. Ma come, Drago? L'anniversario, Drago, è una ricorrenza che celebra il tempo che passa. Sì, quindi va bene. Vero. No? Tu sei un maschilista e un generazionalista. Ma non è vero. Non Finalmente è vero. La moda e la pubblicità scoprono le persone immature. Secondo me è tutto merito di noi, di Chiedo Asilo. Ma scusa, ma quale maschilista? Sì, tu perché, apri scusa, una rivista a caso come questa qua. Sì. Questa bellissima rivista. Dati alla mano, guarda, queste modelle fanno a stento la terza liceo. Sì, secondo me. Però gradualmente saranno sostituite da donne sui 50. Vabbè, ci credo quando lo vedo. Io per ora ho visto sta settimana, forse quella scorsa, ho visto una bambina di 9 anni con le tette finte. Ma dove? Ma sì, quando? Sì, ma sì, cosa sì. dici? Sì, non sì, è possibile. Sì. Vestita da Dolly Parton, un grande scandalo in America. Le tette finte, 9 sì, anni. Sì. Vabbè, comunque qui io la nuova tendenza è meno fuffa e più attenzione alla realtà. Magari quindi... fosse così, ma non è così. Ma c'è scritto qui, dati alla mano, guarda qui, meno fuffa e più attenzione alla realtà. Ma dati alla macchia, non dati alla mano. E chi lo scrive sta roba qua? Antonella ama pane sulla stampa, come vedi. Vediamo un attimo su Google. Antonella ama cane. No, no pane. Pane. Tito! Allora, terzo articolo che appare a sua firma si chiama Elogio della mezza calza. Drago, ho detto tutto. Elogio della, elogio mezza, della calza. Mezza calza. Ma è intesa come indumento o come tipo di persona? Domani è venerdì. Vabbè. Domani è venerdì. Domani è venerdì, siete contenti? Allora, telefonate. Domani è venerdì. A Chiedo Asilo, al numero misterioso. È possibile. Non si può trovare. Ogni volta non hai il numero. Vabbè, sei uno straccio. Diamo la pagina. Straccio. Pagina di Chiedo Asilo, Radio 24. Oggi è giovedì. La mail, chiedosilo@radio24.it. E il numero, io continuo oggi a far passare. Eccolo qua, 02 46 52 44 95. E oggi è giovedì. 02 46 52 44. 95.